Orfano della mia terra, giuro ci ritornerò. Mi sono rotto i coglioni di fare il terrone a nord. Meglio con le palle al sole, non voglio più lavorare. Lascia ste persone sole, sta voglia di litigare. 10 minuti e mi dimenticherò della pioggia. Voglio acqua salata addosso, che mi ricordi Foggia. Perché qua c'è sto sciucor ed il fuoco dentro. Uso lo scaldumon e questo è l'epicentro. Tenimo tutto coso stretto necessario, però ci sentimo stretto come dintra un acquario. I voglio solo che mi bruci la pelle, i voglio umore, dormire sotto le stelle, i voglio gente che non cerca traduzione, i voglio esse terrone legato alla mia tradizione. E se scendi qui terronia, lo sai non c'è storia, rimarrai colpito come in una sparatoria. Foggia non c'è gloria, ma chi ha buona memoria, ben appiglio solo umore sete di vittoria. Scendi giù terronia, lo sai non c'è storia, rimarrai colpito come in una sparatoria. Foggia non c'è gloria, ma chi ha buona memoria, ben appiglio solo umore sete di vittoria. Che cavo de feci a nord solo coce, manco respira e non c'è sto sciumore. Ma sullo lavoro, ma su questo sudore, appiccia palla nu ventilatore. Che mi preparo viaggio, ma aspetta già in spiaggia, falsa valigia e me nasce a Foggia. Tra tazze e becchira, saluti cavaliere e becchira e tazza, salute de sto cazzo. Che una bottiglia a mano mi fazza, nazza nazza, fammi fanno un brinde, sai fuggire brutta razza. E ci torno sempre volentieri a ir come oggi, pur se di tizza da popolazione sempre me t'affoggio. E se scendi qui in terronia, lo sai non c'è storia, rimarrai colpito come in una sparatoria. Foggia non c'è gloria, ma chi ha buona memoria, ben appiglio solo umore sete di vittoria. Scendi giù in terronia, lo sai non c'è storia, rimarrai colpito come